Summertime di Elisabetta Fiorito. Why should we break our backs stupidly paying tax? Better get some untaxed income. Better pick a pocket or two. You've got to pick a pocket or two, boys. You've got to pick a pocket or two. Why should we all break our backs? Let's pick a pocket or two. E i piccoli borsaioli londinesi ci salutano per questa nuova puntata di Summertime. Buongiorno a tutti. Quello che sentite è il musical Oliver, tratto dal capolavoro di Charles Dickens, la storia di Oliver Twist, e soprattutto è di nuovo in scena a Londra un musical importantissimo che nel 1968 divenne anche un film famosissimo e che adesso è tornato. Per parlare di quello che sta succedendo, perché sta sbancando tutti quanti i botteghini, abbiamo Michela Daghini da Londra. Ciao Michela. Ciao Elisabetta, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sì, è davvero la grande casa di produzione, la Cameron Mackintosh, ha presentato questa nuova messa in scena del capolavoro di Lionel Bart ed è davvero, come hai detto tu, un grande successo del West End, ha battuto già ogni record di incasso. Era stato rappresentato l'ultima volta al Palladium nel 1994, adesso torna a far rivivere i personaggi di Dickens con la celebre storia del ragazzo che ha osato chiedere una seconda porzione di zuppa, viene cacciato dall'orfanotrofio e vedrà iniziare così, come sappiamo, tutta una serie di avventure. Questo allestimento è davvero di grande effetto, offre una rappresentazione più spettacolare che mai, è piena di energia, un'orchestra e un cast di 150 artisti, per la maggior parte naturalmente ragazzini. Lo firma il pluripremiato Rupert Gould, che è il ragazzo d'oro della regia, che ha rimesso in scena questa acclamata produzione che era di Sam Mendes e che assieme al coreografo Matthew Bourne adesso mette in scena utilizzando ogni centimetro di quello che è il più grandioso palcoscenico del West End, perché è il più grande, quello del Theatre Royal Drury Lane, e ogni centimetro viene sfruttato con queste impressionanti suggestive scenografie di Anthony Ward che rievocano la fumosa Londra dell'Ottocento, con quindi le vie illuminate dai lampioni a olio, c'è la cattedrale di St. Paul, i grandi ponti mobili che salgono e scendono, e l'ambientazione è davvero molto suggestiva. La colonna sonora, ne abbiamo sentito un assaggio, è molto bella e coinvolge il pubblico dal primo istante, perché il pubblico conosce perfettamente tutte queste canzoni e quindi dall'inizio già le canta e segue questo musical che appartiene davvero profondamente alla cultura britannica. Ecco, noi sappiamo che nel 1968, per esempio, il ruolo di Bill Sykes fu interpretato da Oliver Reed, ma invece questo nuovo allestimento, quello che ci interessa scoprire è che c'è Nancy, la cantante che interpreta Nancy, che ricordiamo è la donna di Bill Sykes, e ricordiamo che poi purtroppo non vogliamo svelare, no? Però non fa una bella fine ed era un'ossessione di Dickens durante il corso della sua vita, tant'è vero che lui faceva sempre le letture di questa scena madre tra Nancy e Bill Sykes. Nancy, da chi è interpretata? Ma è vero che è stata scelta in un talent show? È vero, è verissimo, lei è interpretata da Jodie Pranger, che è questa giovane bella donna, è stata scelta proprio in un programma della BBC One per nuovi talenti, con la supervisione niente meno di Andrew Lloyd Webber, come sappiamo monumento della storia del musical, ed è stata scelta evidentemente prima che debuttasse lo spettacolo, e l'idea era proprio quella di scegliere la protagonista femminile per questo musical, era una sorta diciamo di X-Factor, che si intitolava I'd Do Anything, che è come il titolo di una delle canzoni del musical, e c'è stata quindi una fortissima partecipazione anche da parte del pubblico televisivo che ha seguito la selezione fin dall'inizio, e questo naturalmente ha dato forte slancio e grande impulso alla promozione del musical, che appunto già al primo mese, pensate, di messa in scena aveva venduto biglietti per 20 milioni di sterline, che è una cosa davvero incredibile. Lei appunto si chiama Jodie Pranger ed è quella che interpreta Nancy che tu citavi. Allora ne ascoltiamo un passaggio. As long as he needs me. Oh yeah, he does need me. In spite of what you say. see. I'm sure that he needs me. Who else would love him still when they've been used so ill? He knows I always will, as long as he. E questa è la canzone che Nancy dedica a Bill Sykes, che poi è il suo uomo, ma lei avrà poi questo contrasto interiore tra quello che è la fedeltà al suo uomo Bill Sykes e quello che invece è la giustizia, e questo bambino Oliver Twist che le apre il cuore. Michela, il cast quindi è tutto quanto composto da ragazzini, lo sappiamo, perché ci sono c'è Oliver, ma ci sono tutti quanti i suoi compari, e ci vuoi dire qualcosa? Sì, è un cast di ragazzini di talento straordinario, è davvero commovente vedere come ballano e cantano allo stesso tempo. Sappiamo quanto è difficile, quanto si allena Madonna per farlo, ad esempio, ma perché non è evidente, ma loro sono davvero bravissimi, sono dei grandi professionisti, sanno usare la voce, sono piccoli ma sono giovani professionisti di altissimo livello. Tra l'altro la legge prevede che i ragazzi non possano essere in scena più di 3 sere alla settimana, e dunque ci sono 3 cast, 3 ore, Oliver, 3 Dodgers che si alternano, ma sono tutti davvero molto molto bravi. E soprattutto Dodger, che è quello lì che poi ci diverte di più sempre, no? È con bravissimo, quello suo, sì, anche il più simpatico. Il capo dei pickpockets, il capo dei borsaioli. Invece poi c'è anche un nuovo Fagin, che è il capo, ricordiamo, per chi non ricorda proprio tutta la storia di Oliver Twist, il capo dei bambini, un vecchio che sfrutta questi bambini, questi borsaioli, per far sì che rubino. È vero, lui fin dall'inizio, Fagin era magistralmente interpretato nella versione che ho visto io fino a poco tempo fa da Rowan Atkinson, che è il celebre Mr. Bean, che era davvero straordinario, non era mai sopra le righe ma era molto efficace e bravissimo, e lui ci teneva molto a avere questo ruolo da anni, lo aveva sempre detto, e quindi la produzione evidentemente glielo ha subito affidato nell'ottica di un lancio davvero in grande. Poi lui ha avuto qualche problema di salute, un'ernia inguinale, è stato operato e ricoverato 3 settimane, adesso è arrivato invece nel ruolo di Fagin l'attore di origine iraniana Omid Jalili, attore comico molto popolare. Lui è una celebre star televisiva della BBC, ha un programma sulla BBC One che si intitola Omid Jalili Show, ed è celebre anche negli Stati Uniti perché compare assieme all'attrice Whoopi Goldberg nella sitcom Whoopi in onda sulla NBC, dunque è davvero una star al di qua, al di là dell'oceano. Piace molto, è divertente, è molto amato, e dunque insomma una scelta certamente vincente anche questa di Omid Jalili nel ruolo di Fagin che tu citavi. Senti, ma Mr. Bean non lo vedremo molto in questo ruolo di un cattivo, perché poi Fagin è il cattivo insieme a Bill Sykes, no? Però, è vero. Però deve essere stato particolarmente bravo, come dici tu. Senti, fino a quando resterà in scena il musical, e che cosa possono fare per esempio le persone dall'Italia per prenotare, se magari vanno a fare un weekend a Londra e lo vogliono vedere? Certo, intanto mi permetto di dire che è davvero consigliabile, perché vale un viaggio, vale un weekend. Le prenotazioni sono aperte fino a febbraio 2010, ma come prevedibile, come accade per tutti i musical di successo, a Londra probabilmente resterà in scena anni. Ricordo che il Fantasma dell'Opera è in scena da quasi 30 anni, quindi insomma penso che ci sarà tempo per vedere ancora questo grande spettacolo. I biglietti vanno da 17 sterline della balconata alle 60 della platea, quindi diciamo che ci sono biglietti per ogni tasca. Potete prenderli naturalmente online oppure al teatro o in Leicester Square, ci sono tanti di questi punti vendita che offrono i biglietti scontati nei giorni a ridosso della rappresentazione che vi interessa. Questo è davvero un grande musical, il livello è altissimo, dal cast alle scene ai costumi, è stato speso molto, investito molto per questo allestimento, e mette d'accordo pubblico e critica, che gli ha dato 5 stelle, e il consiglio appunto, se avete occasione, è di non perdervelo, perché è davvero il grande musical nella migliore tradizione. Michela, ma qual è la scena che ti piace di più, quella lì che ti smuove qualcosa? Ma forse certamente questa che tu hai citato, Fagin, nel ruolo di Fagin, Rowan Atkinson era davvero molto intenso, perché era cattivo ma mai sopra le righe, era proprio straordinariamente efficace con tutti questi bambini che gli danzavano attorno coi fazzoletti colorati. E anche la scena iniziale è molto bella, che ci sono tutti questi ragazzini vestiti con abiti dell'Ottocento che si muovono perfettamente sincronizzati e cantano in coro, e il coro con tutte queste voci di ragazzini devo dire che colpisce molto profondamente, perché sono proprio bravi, sono dei bambini ma sono bravissimi. Anche un po' la scena, quella lì purtroppo del delitto, no? Quella che citavo io, che era l'ossessione di Dickens durante la sua vita. È vero, anche se devo dire che il musical ha mitigato molto questi aspetti drammatici, per cui la storia è leggermente modificata e non risulta per nulla triste come era invece il film, che è davvero, a un certo punto uno dice basta, cos'altro gli può capitare a sto povero Oliver. Invece il musical è un po' più allegro, ha dato più risalto, diciamo, agli aspetti gioiosi e vitali della storia, della storia, diciamo, di buon umore. Anche perché, insomma, Dickens poi, lo sappiamo, amava l'happy ending. Allora, Michela, sarai con noi durante quest'estate in summertime, la ringraziamo. Michela Daghini da Londra, ascoltiamo un altro brano dal musical Oliver. Pocket or two, boys, you got to pick a pocket or two. Boys, you may or break your backs, better pick a pocket or two. E dalla Londra dickensiana, dalla Londra dell'Ottocento, passiamo alla Roma del Barocco e alla Roma attuale. A Villa Medici, sede dell'Accademia di Francia, è aperta al pubblico. Per fortuna c'è la possibilità, da quest'estate caldissima fino al 20 settembre, di visitare questa splendida accademia e soprattutto i suoi giardini con il Palazzo Cinquecentesco. Allora, sentiamo Vittoria Matarrese, direttrice artistica dell'Accademia di Francia a Roma. Perché avete deciso di aprirla al pubblico? Grazie intanto che l'avete aperta. Buongiorno, ma di niente, mi sembra normale. Effettivamente Villa Medici è stata un po' nascosta agli sguardi del pubblico per qualche anno, e poi grazie all'arrivo di Frédéric Mitterrand e alla sua volontà di rendere questo edificio più aperto, più disponibile per il pubblico romano ma anche per i turisti, abbiamo inventato questa mostra che si chiama Villa Aperta, e che effettivamente non soltanto apre le porte dell'Accademia ma ne spiega e ne illustra la storia, sia la storia di Villa Medici come edificio che la storia dell'Accademia di Francia a Roma e degli illustri borsisti che sono passati di qua nel corso dei secoli e che hanno lasciato un certo numero di opere. E allora intrufoliamoci nella storia, Vittoria, che cosa ci racconta di questa villa? Chi sono stati questi famosi borsisti che sono venuti a Roma, nella Roma rinascimentale barocca? Ma per esempio, prima di tutto, effettivamente esiste tutta la storia dell'edificio, che è Villa Medici, quindi voluto da Ferdinando de' Medici, che ha dei luoghi assolutamente nascosti e magnifici, come le stanze affrescate da Jacopo Zucchi nel XVI secolo, la suite del cardinale, che appunto erano le stanze del cardinale Ferdinando de' Medici, la sua collezione di bassorilievi che sono ancora incastonati nei nostri muri, e tutta la storia, insomma, di questo edificio. A questa storia si sovrappone la storia dell'Accademia, e quindi di qua sono passati gente come Ingres, come Berlioz, Debussy, quindi insomma esiste comunque una storia che è effettivamente illustre, e quindi possiamo far vedere non soltanto le nostre collezioni ma anche delle cose che abbiamo preso in prestito, che sono poi partite altrove, anche al Louvre, e che abbiamo rimpatriato per mostrarle, dei bellissimi quadri anche dei Van Vittel o dei Caillebotte, e la nostra collezione di gessi, per esempio, perché prima qui i borsisti venivano soprattutto per fare delle copie di statue antiche e a volte sono effettivamente delle testimonianze molto preziose, perché l'originale antico non esiste più e invece esiste ancora la copia in gesso fatta qui a Villa Medici. Allora, uno degli eventi, Vittoria, la prego rimanga con noi, ci sono in quest'estate romana, che in quest'estate in tutta Italia ma a Roma, è proprio il Festival di Musica Barocca che si apre a Villa Medici. E allora vogliamo un attimo immergerci in questa atmosfera, in questa atmosfera di queste musiche un po' lontane ma sempre vicine. Danze rinascimentali eseguite dall'ensemble Douce Mémoire, diretto da Dennis Reisendadr, artisti ospiti del concerto di apertura questa sera, 4 agosto, che inaugura il festival. E andiamo subito a parlare con Alessandro Di Profio, il direttore artistico del Festival di Musica Barocca. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dal 4 agosto fino a quando? Fino al 28 agosto, 4 appuntamenti. Quindi un lungo agosto di musica rinascimentale barocca. E che cosa proponete quest'anno e come si svolge il festival? A che ora sono i concerti? Benissimo, ma guardi, appunto il festival prolunga questa idea di aprire la villa e di farla conoscere, dunque il pubblico può effettivamente entrare nella villa, conoscere i giardini, conoscere stanze spesso chiuse e parallelamente entrare anche nell'universo musicale del barocco romano e appunto di questa bellissima storia che è l'Accademia di Francia. Dunque, prima di tutto 4 concerti, il 4, il 10, il 19 e il 28 agosto alle ore 21, proposti sotto la loggia, sotto questa bellissima loggia con la vista sui suoi giardini, dunque sarà appunto un momento anche suggestivo. I 4 appuntamenti che presenteranno 4 aspetti diversi del far festa, del fare musica nella Roma barocca, nella Roma per esempio appunto del cardinale Ferdinando de' Medici, che poi appunto la lascerà per scegliere invece Firenze. Dunque modi diversi di far festa, per esempio le danze, il 4 agosto appunto con uno sicuramente dei migliori ensemble rinascimentali che è Douce Mémoire, in cui ricostruiremo il ballo tra il re Enrico IV con Maria de' Medici, dunque appunto questa atmosfera festiva di danze. Poi ci trasferiamo il 10 con Rinaldo Alessandrini con un concerto interamente dedicato al salotto del principe, il 19 sarà un appuntamento estremamente suggestivo dedicato a Monteverdi, al tema della notte, tutto un insieme di brani legati appunto al riferimento della notte e penso appunto con un concerto che si svolgerà di notte la cosa sarà praticamente gradita. E poi termineremo con sicuramente il soprano tedesco di cui si parla di più in questo momento, che è Simone Kermes, che è il grande astro nascente, che presenterà un concerto di arie estremamente difficili. Lei veramente appunto si è fatta una reputazione di appunto grande interprete di pezzi difficilissimi, i famosi brani che furono concepiti per i più grandi castrati come Farinelli, ecco appunto lì risentiremo qui a Roma sotto la loggia di Villa Medici. Ecco, il concerto di stasera, che è appunto Enrico IV e Caterina de' Medici, come citava lei, avrà poi un aspetto, perché io vedevo la locandina che era molto carina perché c'erano due danzatori che accompagnavano questa appuntamento, ma è solo musica però. non è solo musica, appunto, è musica, musica viva, musica che vive, perché per esempio i musicisti si sposteranno. Ah, cioè, quindi c'è una coreografia, ecco. C'è una coreografia da parte dei musicisti e poi con ballerini, appunto avremo una compagnia, forse l'ultima compagnia veramente rinascimentale che esiste in Italia, che ha una fama mondiale, che è il Ballerino di Firenze, e appunto manderanno loro ballerini con cui lavora appunto l'ensemble de ce mémoire, e quindi sarà un vero spettacolo, non è un solo concerto a cui si assiste, ma un vero spettacolo. Quindi l'idea è veramente far rivivere questa emozione del matrimonio del 1600 e dico quarto Maria de' Medici, proprio di farlo rivivere qua con un pubblico che sarà appunto anche protagonista. Allora, un evento, Vittoria Matarrese, proprio per rivisitare questa Roma rinascimentale sulla collina del Pincio. Beh, assolutamente sì, restiamo totalmente nella tematica di Villa Medici, di Ferdinando de' Medici, degli affreschi di Jacopo Zucchi. Ci sembrava il quadro ideale per presentare un festival di musica barocca che peraltro, come l'ha già precisato Alessandro Di Profio, assolutamente variegato, raro in Italia e secondo me uno spettacolo bellissimo in questa cornice. Ecco, una cosa, tanto per far capire a chi non è di Roma e che si trova di passaggio, come si raggiunge la Villa Medici, no? Si sale sulla scalinata di Trinità dei Monti e poi? Allora, quando si è a Piazza di Spagna, perché ogni turista va a Piazza di Spagna, si sale effettivamente la scalinata di Trinità dei Monti. E lì sulla sinistra c'è una grande, grande casa con una facciata molto austera che svela i suoi segreti e le sue aperture soltanto una volta che si è all'interno. E da dove si vedono i giardini, appunto ci si immerge in questa atmosfera, come ha detto Alessandro Di Profio, splendida e sognante. Fuori ma dal tempo. Fuori sì. Dal tempo e anche fuori un po' dal caldo, visto che si sta su, no? Sì, la sera c'è sempre una brezza molto piacevole. Molti visitatori da quando avete aperto la villa. Moltissimi. Vengono da quali parti d'Europa? Beh, francesi? No, molti italiani, molti francesi, ma anche, credo che sia una novità assoluta per Villa Medici, inglesi, tedeschi, olandesi e anche qualche giapponese, quindi ci stiamo internazionalizzando. Ricordiamo, Festival di Musica Barocca, abbiamo detto con Alessandro Di Profio, si apre stasera con questo bellissimo spettacolo, dal 4 al 28 agosto sono 4 gli appuntamenti, con l'ensemble Douce Mémoire e con ballerini che rievocano i fasti del matrimonio di Enrico IV e Caterina de' Medici. Allora ascoltiamo un altro brano, proprio quella soprano che ci citava poc'anzi Alessandro Di Profio, Simone Kermesse. Thank you. Summertime. Vieni qui, Allegheno. Fai finta di essere davanti alla finestra della tua amata e improvvisa. Ma però, la notte è molto scura e non bisogna parlare, perché se le parole si perde, a rischio di non trovarle più. La notte è il momento propizio per intortare una donna. Fammi vedere di cosa sei capace. Oh, candela dei miei occhi! Oh, viso rossastro! Oh, denti da cavala! I tuoi capelli sono come la pagia, le tue gambe come due straculi di vedel. Come sta andando? Terribile! Alla grande, alla grande! Non ti distrarre, continua, continua! Oh, la tua pelle profuma come il salame, la tua voce si come il canto delle rane, ti gala petorina gross e fianchi larghi, i toci mi fa brontolare le buele. Allora? Di male in peggio. Benone, benone, vai avanti, continua. Grazie a questa scala te vedarò, diamantina. Don Giovanni Arlecchino è il convitato di pietra. Questo è quello che sentite, questo è quello che va in scena questa sera, 4 agosto alle 21:15 alla Corte Mercato Vecchio di Verona. Il testo e la regia sono di Luca Caserta. Buongiorno Luca. Buongiorno. Benvenuto qui a Summertime. Allora, tu hai deciso di rivitalizzare un po' queste figure di Don Giovanni, di Arlecchino, e soprattutto cosa succede? Qualcuno parla in italiano, qualcuno parla in veneto, insomma, come ti è venuta l'idea? Dunque, l'idea è partita dal canovaccio di Biancolelli, che è un canovaccio del 1600, in cui erano scritte però soltanto le parti riguardanti il personaggio di Arlecchino, dato che Biancolelli interpretava proprio quel ruolo. Biancolelli è stato uno dei più famosi arlecchini della storia e diciamo io sono partito proprio dal suo testo e tenendo le parti che più mi sembravano significative, vicine alla sensibilità odierna e ricostruendo praticamente la storia, la trama, aggiungendo nuove scene, nuovi personaggi in modo da creare una forma narrativa completa. Il tema di fondo che ho voluto accentuare è quello del soprannaturale, ossia di un senso di predestinazione che aleggia su tutta la vicenda di Don Giovanni. Fin dall'inizio dello spettacolo, infatti, attraverso segnali legati alle luci, all'interpretazione, ai movimenti, ad alcune immagini, si capisce comunque che qualcosa succederà. E diciamo che il leitmotiv di tutto lo spettacolo è proprio l'elemento soprannaturale che ritorna esplicitamente in alcuni momenti. Ecco, ma Arlecchino sì. Che cosa fa? Perché allora Don Giovanni va al convitato di pietra, si dovrebbe pentire, no? In teoria, questo almeno è la fine del Don Giovanni di Mozart e del mito anche. Esatto, diciamo. E che cosa succede a Arlecchino? Sì. La storia racconta la vicenda di Don Giovanni, appunto una vicenda di una persona che è dedita al piacere sfrenato, diciamo. Arlecchino è la sua controparte comica. È il suo servitore che cerca di farlo ravvedere, ma poi neanche tanto. Che cerca quindi di Leporello, praticamente Arlecchino sì, interpreta Leporello, quello che nell'opera è Leporello, sì. Sì, esattamente. E è proprio la controparte comica, quella che dà lo spunto per tutti i lazzi comici, i quali si rifanno alla tradizione della commedia dell'arte. E diciamo quindi che Arlecchino cerca di convincere il suo padrone a ravvedersi, ma non è poi neanche lui così convinto, lo vorrebbe denunciare ma poi si spaventa, cerca di invitarlo a pregare per pentirsi dei suoi peccati, ma alla fine nemmeno lui sa come si recita una preghiera. Diciamo insomma è un personaggio un po' stralunato, buffo, che parla in modo impreciso, diciamo, vorrebbe fare discorsi altisonanti come quelli che fa il suo padrone, ma alla fine fa soltanto un groviglio di parole incomprensibili in certi momenti, e la lingua utilizzata per Arlecchino e per le altre maschere che ho ricavato dalla tradizione della commedia dell'arte e ho inserito nel testo è un dialetto veneto rivisitato, diciamo, un po' modernizzato, che ricorda quello storico, però diciamo è adattato per le orecchie degli spettatori odierni, mentre i personaggi diciamo di rango, per così dire, fra virgolette, più elevato, come Don Giovanni, il Duca Ottavio, il Commendatore e così via, parlano in italiano. Quindi insomma uno spettacolo da vedere questa sera che ci ricordiamo sarà alla Corte Mercato Vecchio di Verona alle 21:15. Ascoltiamo allora Luca un altro brano sempre di Don Giovanni Arlecchino, il convitato di pietra. Vedi, L'ipocrisia è l'arma migliore per affrontare la vita. È un'arte. Dov'è? È un'arte che nessuno scopre mai, ti permette di fare ciò che vuoi senza che gli altri se ne accorgano. Non c'è re, nobile o politico che ne sia sprovvisto. L'ipocrisia non lo so, Paolo. Mi so solo che noi siamo uomini, che l'uomo è come le foglie sugli alberi, che quando che se vento le foglie le casca per terra, che sopra la terra che c'è il cielo, che sotto il cielo che c'è il mare, che nel mare che c'è i pesci, che i pesci finisce nella rete, che la rete viene tirata in secca, che la secca anda si grassa, che la grassa la magna tanto, tanto va la gatta al lardo che ci lascia sempre lo zampin. Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampin, come dice Arlecchino e come diciamo anche noi. Allora Luca Caserta, ricordiamo il 4 e il 6 agosto, giusto? 4, 5 e 6 agosto. Quindi dal 4 al 6 agosto, Corte Mercatovecchio, Verona, ore 21:15, Don Giovanni Arlecchino e il convitato di pietra. Immaginate un invito a cena, tutti eleganti, le donne con i tacchi a spillo, gli uomini magari con lo smoking o comunque con l'abito da sera. E poi, nella migliore tradizione di Agatha Christie, per esempio, alla fine della cena c'è un delitto. Tutto questo a teatro, con i sapori del teatro, la compagnia a bocca aperta. Allora, sentiamo un attimo, regista e autore è Daniele Milani, ma che cosa si fa, che cosa succede in questo spettacolo teatrale che non è solo uno spettacolo teatrale? Buongiorno a tutti. Sì, si tratta in realtà di un evento che mescola il teatro ad una elegante cena, come giustamente è stato detto. Le persone sanno che durante la serata accadrà qualcosa, precisamente un delitto, si accomodano in dei tavoli elegantemente imbanditi e ad un certo punto della serata, in un momento in cui creiamo anche un effetto sorpresa, c'è qualcuno che muore. E la caratteristica della serata è che il pubblico è chiamato a scoprire chi sia in realtà l'assassino. È giusta la citazione di Agatha Christie perché le leggende raccontano che sia stata proprio Agatha Christie ad inventare questo tipo di performance che la faceva con i suoi amici in Inghilterra. Pensa che bello, no? I suoi amici erano tutti contenti di andare a cena da Agatha Christie e magari di essere uno di quelli che doveva perire. Ma a parte questo, voi date anche da mangiare, a quanto ho capito, cioè le persone si accomodano e mangiano. Sì, sì. C'è un menù. È una parte importante della serata, in realtà. I ristoranti o i catering, l'organizzazione è sempre chiamata ad organizzare una cena che deve essere anche una cena di alto livello solitamente, si mangiano spesso prodotti tipici e in realtà uno dei punti delicati è riuscire a coniugare la cena con uno spettacolo teatrale in maniera anche, come dire, elegante, senza scadere nel dozzinale, che è una cosa difficile ma che noi crediamo di aver ottenuto. Chiara Papanicolaou, tu che ruolo interpreti in questa cena con delitto? Allora, buongiorno. Io interpreto il ruolo della meglio identificata signorina in rosso, non ho un nome o un cognome, mi contraddistingue il colore dell'abito che indosso durante questa cena. Diciamo, io sono l'organizzatrice della serata, la presentatrice della serata, sono colei che in un certo senso guida, aiuta il pubblico verso quella che è la risoluzione del caso. Come ha detto Daniele, il pubblico a un certo punto viene chiamato in causa e deve stabilire chi sia l'assassino, il colpevole di questo delitto. E io ho una parte, diciamo così, molto di, anzi direi soprattutto, quasi esclusivamente di interazione, di improvvisazione col pubblico, perché è uno spettacolo che si basa per gran parte, soprattutto la mia parte, sul coinvolgimento diretto del pubblico. Quindi io sono appunto questa presentatrice, lungo il corso della serata intervengo in più momenti e ho uno scambio diretto col pubblico, perché devo cercare di instradarli o di depistarli a seconda di come più preferisco giocare con il pubblico, diciamo. Ecco, quindi ma con chi la presentatrice. Chi viene ucciso, sì. È un personaggio del pubblico o un attore? Insomma, diciamo, se fosse un personaggio del pubblico, penso che a questo punto ci avrebbero già carcerati tutti quanti. è un partecipante alla serata, diciamo così. Insomma, quindi è un partecipante alla serata che però verrà poi fuori che è un attore. Daniele, che cosa si mangia a cena stasera? Ricordiamo, alle 21, oggi 4 agosto, a Villa Razzolini, Loredan ad Asolo. Ah, si mangeranno soprattutto prodotti tipici, la cucina è di alto livello, poi è giusto mantenere un velo di mistero su tutto, anche sulla cena. Però qualche chicca, no, non ci dite come muore questo personaggio, cioè se è avvelenato, se pure viene magari ucciso con una rivolverata, per dire, cioè, no, non si può dire, poi non si può dire nemmeno il menù, dai Daniele, un pochettino, no, non so, l'antipasto. No, possiamo dire questo in generale, che la serata è misteriosa, e posso dare una chicca se vuoi sulla serata, anche più interessante del menù. Possiamo dire che i partecipanti, ad esempio, prima di arrivare a teatro o nella sala dove lo presenteremo, vengono contattati telefonicamente direttamente dall'assassino, che dà loro delle informazioni e dei dettagli che poi si verificheranno indispensabili per riuscire a risolvere il caso alla fine della serata. Quindi vengono contattati direttamente dall'assassino, però loro non sanno che è l'assassino. Voi ricevono una strana telefonata che gli dà degli indizi e poi questi indizi. Voi quanti siete in questa cena? Cioè vi mischiate tra il pubblico, ma quante persone sono la compagnia? La compagnia è composta da 11 persone generale, in questo spettacolo siamo in 8. In 8, però il pubblico non sa chi è l'attore e chi non lo è. E voi siete del teatro dell'Aquila, giusto? Di un teatro di Noi siamo della compagnia teatrale Bocca Aperta, che ha sede all'Aquila, sì. Ecco, questo è importante ricordarlo, perché è un esempio virtuoso di quello che sta accadendo in questa magnifica città distrutta dal terremoto, dove gli attori continuano comunque a recitare, ricordiamo, questa sera, Cena con delitto, 4 agosto, ore 21, Villa Razzolini Loredan ad Asolo. Summer Time. E allora andiamo di nuovo a Roma, Roma in scena, uno spettacolo però che ha a che fare con la Sicilia e con i mali del nostro tempo, la mafia vista attraverso la storia di due fratelli chiusi in gabbia. Aldo Rapé la interpreta, giovane autore e attore siciliano, lo spettacolo si chiama Mutu. Buongiorno Aldo. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Che cosa vuoi dire con questo spettacolo? Qual è stata la tua idea? L'idea è stata di far chiudere dentro questa gabbia, che poi è un appartamento, questi due fratelli, e di parlare di mafia, che è chiaramente un pretesto per poi parlare della condizione umana di questi due fratelli, semplicemente protagonisti, Saro, questo killer spietato della mafia, e il fratello Salvuccio, che è un prete, che ritorna dopo 20 anni a casa, ha fatto scelte apparentemente diverse, ma poi insomma si ritrovano tutte e due a discutere di mafia e chiesa, due grosse istituzioni del nostro tempo purtroppo. Quindi loro due sono rinchiusi in un appartamento e sì. Conversano e sono due sono le persone in scena, Nicola Vero e dialogo. Tu. Sì, io e Nicola Vero per la regia di Lauro Versari. E mi piace ricordare, se mi permetti, che lo spettacolo sarà riservato a 33 persone per ogni sera, quindi magari c'è anche la possibilità di prenotare eventualmente, insomma, perché è una cosa molto molto particolare, una messa in scena particolare. Cioè tu devi stare lì come spettatore e devi sentire bene o male quello che dicono. Sì, queste... stai dentro, è come se te fossi una telecamera che stai a spiare quello che noi stiamo facendo dentro l'appartamento. Stai anche a una distanza molto avvicinata, insomma, con gli attori, cioè si parla di pochi centimetri, quindi figurati. È una cosa che sta riscuotendo molto successo, anche perché siamo quasi alla 130esima replica. E ricordiamo, intanto diciamo che stasera, il 4, il 5 e il 6 agosto, sarete perfetto, quindi nel Museo Pietro Canonica a Villa Borghese. Alle ore 21. La distribuzione dello spettacolo è dell'Associazione Culturale Artelier di Roma, insomma, che ci ha anche ospitato per l'evento. Tu però sei siciliano, Doc? Io sono sicilianissimo, Doc. Sì, di dove? Di Caltanissetta, centro Sicilia. Di Caltanissetta. Invece Nicola Vero? Nicola Vero è pugliese. Ah, però e la produzione è pugliese, Prima Quinta di Bari, è una compagnia pugliese. Senti, io ti voglio chiedere una cosa, anche se è un po' difficile perché non stai in scena, però ti voglio chiedere magari se ci leggi un brano, se ci reciti una battuta particolare che questo personaggio che tu interpreti dice a un certo punto al fratello. Ti accenno, guarda, veramente 20 secondi di dialogo tra loro due quando... Tu fai il prete o il mafioso? Io faccio il mafioso. Ah, ecco, okay. Il prete, ovvio, che è un bravo ragazzo, lo fa Nicola e lo fa pure bene. Loro due parlano, a un certo punto si parla di chiesa e mafia, c'è uno scontro anche sulle origini loro, insomma, perché sono figli comunque di un boss mafioso, e c'è questo piccolo scambio tra di loro dove il mafioso... dice qualcosa sulla Madonna, che ha a che fare con la Madonna perché si parla molto di chiesa, e il prete risponde: non parlare così della mamma, e il mafioso dice: ma perché, come ne devo parlare, come se fosse la Madonna? La mamma era la Madonna, la Madonna non si sarebbe mai prostituita, se avesse avuto 11 figli da sfamare forse l'avrebbe fatto pure lei. E questo è un po' il centro del discorso tra mafia e chiesa, dove si parla anche della miseria che molte volte di questi piccoli paesi siciliani, e quindi si è quasi costretti a diventare, a far parte del sistema mafioso. Insomma, diciamo così, la mafia purtroppo ha un gioco perché le persone sono povere e quindi offre loro degli stipendi fissi e regolari che invece assolutamente, altrimenti purtroppo questo, è quello il problema. Purtroppo brava, non è chiaramente da giustificare, però purtroppo è una realtà che ci appartiene, inutile nasconderla. La chiesa ne ha altre, insomma, per chi viene a vedere lo spettacolo è un bel match, perché è come se fossero all'interno di un ring. Ecco, ma la chiesa rappresenta il bene oppure rappresenta l'omertà? Questo che ma voglio, guarda, capire. Guarda, no, mi permetto di non, lo dico molto apertamente, io le ho messe a confronto, ma perché le ritengo un po' anche sorelle, purtroppo, proprio per questo silenzio sul quale molte volte si celano altre cose, altri tipi di interessi, eccetera. Quando parlo di chiesa parlo di istituzione chiesa, non dei preti singoli, però insomma la critica non dei preti che rischiano la vita o che sono stati uccisi dalla mafia. Bravissimi, anche perché tra l'altro lo spettacolo è dedicato a Don Pino Puglisi, quindi insomma e si fa anche un chiaro riferimento a lui durante lo spettacolo. Insomma è una cosa da vedere, credo, perché è anche un po' innovativo il tipo di messaggio che si vuole mandare con lo spettacolo, e anche la sua messa in scena, perché ha fatto 130 repliche, le ha fatte tutte in un appartamento. Quale messaggio? Tu hai detto c'è un messaggio che vogliamo mandare. Sì, che forse non conviene più starsene zitti e non parlare. Alla fine i due fratelli si ritroveranno in un abbraccio e capiranno che tutto sto silenzio, tutta sta omertà non porta a nulla se non ad essere soli, a rimanere soli, e questa cosa penso che non faccia piacere a nessuno. Insomma, io da siciliano la sento in maniera particolare, ma penso che tocchi un po' a tutti, non solo a me. Da qui il titolo, come mi faceva notare la mia regista Gloria Guerrera, anche lei siciliana, quindi mi ha detto mutu. Fantastica. Vuol dire zitto. Zitto, sì, stare mutu si dice in Sicilia, ti devi stare zitto, è proprio un imperativo categorico. Ah, ok, da stare mutu. Da stare mutu, quando Gloria ti fa arrabbiare te dalla regia gli fai da stare mutu e lei capisce. Ah, ho capito, ma guarda, è più probabile che lo faccia a lei e a me. Allora, guarda, noi... io non so se voi ce la fate a venire stasera, però chiaramente vi aspetto, sarebbe carino se vi venite a vedere lo spettacolo. Allora, ricordiamo, 4, 5, 6 agosto 2009, oggi, Museo Pietra Canonica a Villa Borghese, Associazione Culturale Atelier, Lauro Versari regia, Nicola Vero e Aldo Rapè sul palcoscenico per Mutu, uno spettacolo di Aldo Rapè. Sono disponibili solo 33 posti, l'ingresso è gratuito, però bisogna telefonare per prenotare. È meglio. Allora, Mutu e buona performance. L'allegrezza del vento, fughe i cattivi pensieri, mentre ogni ombra fugge via. Le giornate si accorciano, la sera i fuochi inondano i dintorni di luce. La tristezza non prevale su me, col canto la tengo lontana. Le giornate si allungano, sto aspettando l'estate. Anche se non ci sei, tu sei sempre con me, per antiche abitudini, perché ti rivedrò dovunque tu sia. E adesso andiamo in Valpusteria, in Alto Adige, nel Tirolo orientale, per una conferenza di funghi, frutti ed erbe. E si svolge a Dobbiaco oggi pomeriggio alle 16.30 e a tenerla è Angela Desimine, naturopata ma anche escursionista. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, chi è in vacanza in Alto Adige, chi è in vacanza in Pusteria può un attimo venire a vedere quali sono i funghi da cogliere e quali che sono invece da lasciare. Certamente sì, anche se purtroppo dobbiamo dire che in questo inizio di stagione i funghi si stanno facendo desiderare, ma abbiamo sicuramente la certezza che prima o poi arriveranno, tempo permettendo, con un po' di pioggia. Perché in questo momento in Alto Adige non piove. No, abbiamo avuto molto vento e questo non è particolarmente indicato per la crescita del fungo, che ha bisogno di umidità. Il vento invece secca il sottobosco e di conseguenza stiamo ancora aspettando che arrivino. Ecco, i funghi maggiori sono sempre i finferli. Diciamo che ci sono due diversi momenti in cui ci sono diverse varietà. All'inizio della stagione, quando c'è molta umidità e un caldo piuttosto intenso, quindi luglio, la metà di agosto, è facile trovare i finferli. Quando invece il caldo scema e c'è invece anche un'umidità minore, è il momento dei cosiddetti bellissimi porcini, che sono dei boleti. Naturalmente si raccolgono anche altri funghi, ma questi due sono quelli naturalmente più conosciuti, non soltanto in Alto Adige, ma credo in tutto il resto d'Italia. E noi consigliamo a tutti quelli che li raccolgono poi di andarli comunque a far analizzare se sono buoni o se sono cattivi, perché si può prendere sempre un finferlo per magari un fungo velenoso, no? No, diciamo che i finferli hanno fortunatamente la somiglianza con un altro funghetto che comunque non è altrettanto buono, ma è commestibile. Più difficile è invece distinguere i porcini buoni da quelli tossici, ancora più difficile entrare nel mondo delle amanite. Allora in questo caso sicuramente è bene farsi controllare il cesto da un esperto. Presso le unità sanitarie locali ci sono i micologi che controllano il nostro raccolto. Ecco, invece i frutti? Beh, i frutti sono quelli tipici della montagna, andiamo dal mirtillo nero fino, passiamo attraverso le fragoline di bosco, i lamponi e poi ci sono i mirtilli rossi che non tutti conoscono. La pianta è la stessa del mirtillo, si tratta sempre di un vaccinium, questo è il nome scientifico della pianta, vaccinium mirtillus è il mirtillo nero, vaccinium vitis idea è il mirtillo rosso, il quale è un pochino più asprigno e pastoso al gusto, ma è ottimo per fare delle marmellate. Ecco, le erbe invece, lei poi fa proprio queste conferenze, funghi, frutti ed erbe. Le erbe dell'Alto Adige, le erbette famose per addolcire il palato? Beh, le erbe sono di tantissimi tipi, diciamo che ce ne sono alcune che crescono già dal mare fino a 2000-2500 metri e sono un po' tradizionali di tutto il nostro territorio mediterraneo, altre invece sono specifiche del territorio alpino, per esempio tra quelle specifiche del territorio alpino pensiamo alle artemisie, Artemisia glacialis, Artemisia mustellina, che sono quelle che servono per fare per esempio il GNP. Il GNP, buono! È un liquore particolarmente aromatico, profumato, che va comunque centellinato perché l'artemisia è una pianta che aiuta moltissimo la digestione e anche serve per stimolare l'appetito, ma va usata con parsimonia perché a dosi più alte può essere leggermente tossica. Allora ricordiamo Angela Desimine presso la sala musica della scuola elementare di Dobbiaco, oggi pomeriggio alle 16:30 la conferenza su funghi, frutti ed erbe. Io ringrazio Paolo Correoni in regia, in redazione Gloria Guerrera. Vi ricordo che ci potete scrivere a summertime@radio24.it. Vi do appuntamento a domani mattina alle 10. Una buona giornata da Elisabetta Fiorito.